Babbo è stato arrestato dalle forze francesi che sono entrate nella sua residenza, nel suo bunker ad Abidjan, e portato successivamente al cospetto di Ouattara, che ricordiamolo, dall'inizio diciamo degli scontri tra le due fazioni opposte, si trovava nell'albergo du Golf ad Abidjan. Già questo episodio ha fatto, diciamo, scaturire una serie di discussioni molto accese e di accuse, insomma, tra coloro, i sostenitori di Babbo, ma non solo, che accusano appunto la Francia di essere entrata con la forza nella residenza di Babbo, e la Francia che smentisce nel modo più assoluto queste affermazioni. Ovviamente ci sono, a quanto pare, circolano, comunque ci sono delle prove video e dei testimoni che insomma andrebbero a smentire le affermazioni della Francia, ma fra poco ritorneremo su questo punto. Come ha percepito la popolazione l'arresto di Babbo? Sicuramente a quanto pare non c'è stata una forte esultanza, cioè non è, il clima non è cambiato, anzi forse è peggiorato, perché in realtà la popolazione ha cominciato seriamente a preoccuparsi di eventuali ritorsioni che poi si sono verificate da lì, cioè, a poco, nel senso che si parla di queste truppe e di queste milizie di Ouattara che stanno seminando comunque il terrore ad Abidjan, che massacrano, stuprano, uccidono, saccheggiano, insomma, che stanno compiendo dei massacri in nome di Ouattara in ogni caso. E sono truppe mercenarie o Probabilmente sì. Probabilmente sono sempre le stesse, cioè quelle che comunque si sospetta che siano state finanziate dalla Francia, quelle che comunque fanno riferimento a Ouattara e che in un certo qual modo hanno un certo protagonismo sulla scena ivoriana già dal 2000, cioè dal 2002, scusate. Quindi, insomma, la situazione è pesantissima perché gli scontri non si sono assolutamente arrestati, e anche se forse l'unica notizia positiva, ma che non, diciamo, non comporta sicuramente un miglioramento sensibile nel breve periodo, è quello che finalmente l'Europa ha deciso la settimana scorsa, il weekend scorso, di sospendere l'embargo di medicinali e di alimenti, cioè che aveva comunque messo in ginocchio la popolazione ivoriana. E quindi diciamo che questo forse è l'unico aspetto che al momento risulta essere positivo, anche se, lo ripeto, non avrà conseguenze nel breve periodo. In ogni caso, sì, resta un po' questo mistero sull'entrata della Francia e della missione francese dentro il bunker. Ritorno a ribadire appunto, cioè che la Francia in Costa d'Avorio, ovviamente la Francia continua a dire sì, noi ci siamo mossi per garantire la democrazia, ma normalmente la democrazia o l'ordine democratico, se lo vogliamo così definire, non possono essere ristabiliti, cioè comunque dalle armi. È normale che questo adesso creerà non pochi problemi, come cioè, era già preannunciato, e soprattutto a livello nazionale legato all'esercito, nel senso, come una delle domande che mi pongo è quella proprio relativa alla convivenza di questi due schieramenti opposti in un eventuale esercito nazionale. Come faranno, cioè, a convivere, cioè i fedeli a Ouattara con l'esercito di o comunque fedele a Babbo? L'Unione Europea ha consigliato comunque a Ouattara di dar vita ad un esecutivo con un'ampia base di rappresentanza, capace di riflettere tutte le regioni e le opinioni politiche dello Stato, cosa che secondo me sarà impossibile. Ci sono troppi precedenti, una lotta che va avanti comunque dal 2002, che vede risolti moltissimi dei problemi che poi sono, diciamo, alla sua base. Quindi, insomma, un consiglio o una prospettiva che probabilmente non saranno facilmente realizzabili comunque da Ouattara. In ogni caso, ritornando invece al discorso francese, come avevamo detto l'altra volta, la Francia nel contesto ivoriano sicuramente ha dei fortissimi interessi che vengono naturalmente ancor prima di tutti quelli che sono i motivi etici o democratici da con cui si è sempre diciamo giustificata. E quindi oltre a questa diciamo voglia di consenso di Sarkozy e quindi anche di ritornare a riaffermare lo status di potenza mondiale, c'è sicuramente tutto il discorso della economico. Allora, la Francia, dobbiamo ricordare che ha un impero in Costa d'Avorio sin dall'indipendenza, cioè si parla di telecomunicazioni, si parla di ricchezze minerarie, di tabacchi, gestione di porti, bibite, insomma gestione dell'acqua potabile. E non è da sottovalutare neanche il fatto che moltissime strutture sono di proprietà della Francia, tra cui anche i palazzi che ospitano la presidenza e il Parlamento. Un altro aspetto, prima di andare a vedere un po', anche se ammetto che è stato molto difficile diciamo trovare delle notizie su questo aspetto, dopo andremo a vedere diciamo alcuni quali sono le principali multinazionali presenti sul territorio e cosa è successo dal 2002, soprattutto quando Babò ha deciso di aprire il mercato del petrolio alle società, comunque le multinazionali americane, cinesi e giapponesi. Vediamo un attimo cosa brevemente e in modo molto sintetico cosa è successo dall'indipendenza in poi. Cioè, quello che è sappiamo che nell'Africa subsahariana francofona ancora oggi vige il CFA, cioè il franco diciamo delle colonie francesi d'Africa. Questo è il significato insomma dell'acronimo. E questa moneta ha una convertibilità garantita dal Ministero del Tesoro di Parigi e secondo il quale ogni paese dell'Africa francofona che ha il CFA deve depositare il 65% delle proprie riserve di valuta estera, oltre ad un altro 20% come garanzia a copertura di eventuali passivi finanziari, per un valore di circa 25 miliardi di dollari. Babò, diciamo, che non può essere definito naturalmente è una figura controversa che sicuramente ha anche molte colpe, che sicuramente si è macchiato di diversi crimini, ma che ha provato in ogni caso a combattere l'ingerenza francese e non solo, ha commesso il più grande errore che ha commesso è quello di aver escluso, o comunque di non aver confermato la presenza francese, di aver escluso in un qualche modo la Francia dalla corsa al petrolio. E quando venne eletto, Babò cercò in un qualche modo di allentare la morsa delle società e delle imprese francesi in un paese in cui comunque c'era la Saur, l'EDF, l'Orange, la Bouygues, che controllavano trasporti, acqua, elettricità, vie di comunicazione, ma c'erano anche la Société Générale, la BNP, le Crédit Lyonnais, che invece avevano la dominanza, l'egemonia per quanto riguardava il settore finanziario. E anche diciamo il primo elemento di frattura fu quello relativo alla gestione del porto del progetto del porto di Abidjan, dove Babò diciamo fu maggiormente interessato da dalla proposta cinese, che naturalmente appariva essere più conveniente di quella francese. Da lì cominciarono una serie di conflitti, contrasti con la Francia, che poi andarono diciamo si acuirono per il conflitto petrolifero. La Costa d'Avorio oggi produce ha una capacità produttiva di 100.000 barili di petrolio al giorno. La parte del leone in tutto il settore petrolifero la fanno sicuramente la Canadian Natural Resource, la Tullow Oil, che è irlandese, la britannica Afren, con la compagnia di Stato ivoriano che è la Petroci. All'orizzonte si vedono altre compagnie, si vede innanzitutto l'australiana Rialto, che attraverso vari giochi di acquisizioni si è garantita l'85% del blocco CI-202, uno dei blocchi da cui si estrae comunque petrolio in Costa d'Avorio, e della russa Lukoil. La russa Lukoil, che lo scorso settembre aveva annunciato degli investimenti pari a 780 milioni di dollari tra Ghana e Costa d'Avorio. Quindi, e la Total, ricordiamolo, francese, che ad ottobre, quando era già sicura della vittoria di Ouattara, aveva annunciato l'intenzione di cominciare comunque delle spedizioni e delle esplorazioni nell'ex colonia francese. Quindi, diciamo, Babò aveva in un certo qual modo assicurato la presenza dei russi in Costa d'Avorio, ma non quella dei francesi. E questo ha ha scaturito poi comunque tutte le lite della Francia, che sono culminate quando nel 2004 Babò per sbaglio uccise quei nove diciamo francesi appartenenti all'esercito francese, e la Francia per risposta decise di abbattere tutta l'aviazione della Costa d'Avorio. Insomma, un'ingerenza già quella, ma non era la prima assolutamente, che fa capire, cioè, chiaramente qual è il gioco di interessi, o comunque qual è l'interesse principale che spinge la Francia a occuparsi, comunque a preoccuparsi della Costa d'Avorio. Quindi abbiamo, cioè, diverse multinazionali, le più importanti le abbiamo detto, comunque quelle del petrolio le abbiamo, diciamo, appena accennate, ma ce ne sono tante altre nel settore, ad esempio dell'agribusiness. Non ce ne sono ovviamente solo francesi, ma in particolare in questo settore, che è un settore strategico dove comunque si gestiscono tutte le produzioni di sementi, pesticidi, fertilizzanti, attrezzature agricole, abbiamo come principale interlocutori economici la Cargill, questo l'avevamo già detto l'altra volta, l'ADM, la Potash Corp, la Monsanto, la Syngenta, la Bayer, la Gico, la John Deere, la New Holland. Queste sono le principali che occupano in questo settore, però ricordiamo che la Francia guadagna in realtà 2,5 miliardi di euro all'anno solamente dal settore del cacao, e il principale produttore o comunque esportatore di cacao, cioè la principale multinazionale francese, è la Semoy, che nasce nel 1814 ed è presente in Costa d'Avorio invece dal 1996. Il cacao, che però non è, oltre ad essere sicuramente la Costa d'Avorio il primo paese esportatore al mondo di cacao, non è l'unica risorsa. Ricordiamo, tra l'altro l'altra volta forse non l'ho neanche detto, che la Costa d'Avorio è anche la principale riserva africana di caucciù, con 20.500 tonnellate prodotte solamente nel 2009. Quindi abbiamo visto petrolio, abbiamo visto agribusiness, c'è però il settore dei trasporti marittimi, dove è sempre la Francia che ha il ruolo principale con la Delmas, che è una compagnia di trasporto marittimo che copre moltissimi porti africani, ma soprattutto che garantisce comunque le esportazioni in quasi tutti, cioè il rifornimento in quasi tutti i paesi, i porti dell'entroterra africano comunque. Quindi nel settore marittimo abbiamo la Bolloré, che è da 25 anni che comunque cerca di diversificare il suo mercato ed è presente in Costa d'Avorio in tantissimi settori. Si va dalla distribuzione dell'energia ai terminali, sistemi specializzati, veicoli elettrici, trasporti, la logistica, insomma un'impresa, una multinazionale che ha un grandissimo peso attualmente. Quindi, allora, appurato il fatto che gli interessi francesi siano comunque preponderanti in Costa d'Avorio, che questo automaticamente abbia scatenato appunto quella reazione che hai descritto due settimane fa, insomma, in riferimento all'approfondimento che abbiamo fatto sulla costa d'Avorio. È interessante poi notare anche le procedure con le quali la Francia, no, ha legittimato il proprio intervento in Costa d'Avorio anche a livello internazionale. Perché? Perché sono simili, se si pensa a quanto sta avvenendo in Libia, sempre con il cappello dell'ONU, no? Anche se poi in Costa d'Avorio ci sono state delle tensioni tra Francia e ONU per quanto riguarda l'intervento ultimo che ha visto appunto Ouattara essere anche sostanzialmente prendere il potere nel paese, giusto? Certo, sì. Vabbè, perché insomma attualmente l'ONU e la Francia si accusano a vicenda. C'è la Francia che dice che in realtà è stato l'ONU a bombardare diciamo per primo e poi a chiedere l'aiuto della Francia, c'è invece l'ONU che risponde dicendo che è stata la Francia ad entrare nel bunker di Babò, e quindi attualmente l'ONU ha deciso di nominare tre ispettori per indagare sulle violenze che sono state, vabbè, come al solito, commesse in Costa d'Avorio. Cioè non ci sono novità da questo punto di vista. Ricordiamo poi che la risoluzione o comunque l'intervento dell'ONU legittimato a livello appunto di diritto internazionale prevedeva che cosa? Prevedeva la difesa della popolazione. Certo, sicuramente civile, non era previsto credo il bombardamento. Sempre certo. Prevede, non lo prevede sempre, sempre la difesa. Solo che poi chissà famose, sì. le armi fanno tutta guerre umanitarie, attraverso questo escamotage giuridico riescono poi a legittimare in realtà interventi che con quel tipo di risoluzione non dovrebbero avere niente a che fare, perché comunque in questo caso arrestare l'oppositore principale di Ouattara e in questo modo quindi modificare sostanzialmente gli equilibri o comunque lo scenario politico del paese, appunto questo tassello, questa decisione deve essere appunto poi vista nel lungo periodo con tutte quelle decisioni che tu hai tentato di rivelare e comunque di analizzare la due settimane fa in riferimento alla legittimazione del processo elettorale, al silenzio della stampa internazionale e anche appunto la stampa più anche il tentennamento dell'Unione Africana, comunque c'è ci sono delle persone che si interrogano, comunque si domandano perché la Francia alla fine, visto che l'intento era chiaro sin dall'inizio, è intervenuta solo in quest'ultimo periodo. E in realtà una delle risposte più plausibili è quella che lega l'atteggiamento della Francia all'Unione Africana, nel senso che l'attesa derivata probabilmente dall'indecisione o comunque dal ruolo di preminenza giocato da Pretoria, che inizialmente ha tentato di stabilire o comunque di raggiungere una mediazione, di far raggiungere una mediazione in Costa d'Avorio, una mediazione che poi non ha avuto diciamo nessun esito positivo, che non si è conclusa positivamente. Quindi probabilmente la reticenza iniziale, oddio non si può proprio definire così, però comunque l'attesa della Francia è dipesa dalla prudenza di Pretoria, cioè dai limiti che Pretoria insomma inizialmente aveva posto, poiché comunque voleva gestire, era l'Unione Africana che insomma voleva gestire il conflitto. Quindi diciamo che la colpa principale di Babò da questo punto di vista, o meglio nel conflitto che c'è stato con Ouattara, possiamo definirla forse solo il tentativo che lui ha fatto di diversificare la dipendenza della Costa d'Avorio dalle potenze straniere, perché non è che Babò, anche nella politica certo, di nazionalizzazioni, anche Babò, no, appunto, che descrivevi tu l'altra volta, come anche questi tentativi di far avvicinare capitali stranieri non francesi, russi, ma non solo, anche cinesi, dicevi. Cinesi, no? Giapponesi e statunitensi. Sì. Ricordo che due settimane fa, quando parlavamo, avevo accennato della Costa d'Avorio, avevo accennato appunto a questo senatore americano Inolfe che aveva detto di rifare le elezioni, cioè solo attraverso nuove elezioni si poteva, diciamo, forse arrivare ad una pace in Costa d'Avorio, ma ovviamente Inolfe rappresenta tutti gli interessi statunitensi in Costa d'Avorio in modo abbastanza chiaro, quindi ovviamente l'America sta all'inizio a diciamo è stata a guardare principalmente perché non in un certo qual modo questa situazione fa gioco all'America mettendo in cattiva luce la Francia, cioè l'America che cercava come la Russia, come la Cina, come il Giappone di avvicinarsi con quelle risorse della Costa d'Avorio. Quindi è un gioco insomma di strategico, economico, insomma, che poi alla fine si vedrà adesso dove porterà. Cioè, sicuramente Ouattara è l'uomo della Francia, cioè non ci sono dubbi, è stato direttore del Dipartimento Africa del Fondo Monetario Internazionale, è stato comunque il governatore della Banca Centrale degli Stati dell'Africa Occidentale e soprattutto è stato un teorico, il teorico delle liberazioni che ai francesi sono piaciute tantissimo. Liberalizzazioni. Mentre agli ivoriani non sono piaciute affatto, insomma. Quindi certo. E Ouattara, tra l'altro, una notizia così più leggera, è stato anche sposato, diciamo, dal sindaco di una cittadina che allora era Sarkozy proprio. Cioè, ma questa è una notizia così che di gossip della France Afrique, però insomma, sì, sicuramente Ouattara è l'uomo francese, quindi l'America sa, ma non solo l'America sa che in questo momento parte che da questa situazione partirà comunque svantaggiata. Certo. Ecco, c'è un ragionamento che si può fare a partire da come hai detto tu, appunto, dello scontro interimperialista, diciamo, in Costa d'Avorio. Si può anche allargare con molta circospezione e tranquillità, però è una categoria interpretativa non nuova per capire no, assolutamente. I conflitti interimperialisti che spesso avvengono, cioè una volta i conflitti interimperialisti avvenivano le guerre europee che si sono massacrate fino al secondo conflitto mondiale, le facevano tra di loro. Dal secondo conflitto mondiale inizia questa nuova fase in cui le guerre interimperialiste, cioè lo scontro che so tra Europa e Stati Uniti, oppure Stati Uniti e Russia al tempo che c'era l'Unione Sovietica, oppure tra potenze anche europee, avvengono in luoghi diversi, non tra di loro, non si scontrano più, diciamo, lontani, sì, più lontani. In terzi luoghi, in luoghi terzi. Ma io credo che anche per esempio in Libia, anche in Libia ci sia questo aspetto dello scontro interimperialista, anche questo tra il blocco franco-britannico e gli Stati Uniti d'America in Libia e così in Costa d'Avorio, cioè questa nuova categoria che ci può permettere di interpretare appunto anche... Assolutamente, poi se pensiamo un attimo al contesto libico e alla successione, cioè, anche a livello... Allontanarsi. No, però effettivamente se riflettiamo un attimo su quanto avvenuto negli ultimi mesi in tutto il Nord Africa, vediamo come l'atteggiamento delle potenze europee nei confronti delle differenti insurrezioni che si sono prodotte nel Nord Africa è stato via via, da un iniziale quasi timore all'intervento, comunque una sostanziale impreparazione per il caso tunisino, successivamente per il caso egiziano. Nel caso libico in realtà si è visto proprio come la divergenza di strategie imperialiste di alcuni, non so se possiamo parlare di blocchi, perché in realtà qui si sta parlando davvero di strategie individuali, molto individualiste, sì. Ecco, diciamo, cioè, non tanto di blocchi proprio contrapposti, omogenei, è soltanto franco, nemmeno europeo stavolta, è franco-britannico, sì. Qui però le tensioni sono scoppiate in maniera molto più evidente, no? Sì, se in Egitto si sta mantenendo un larvato controllo da parte degli Stati Uniti con un'assistenza o comunque un costante monitoraggio da parte delle altre potenze occidentali, in primis quelle europee, in Libia invece lo scontro è divenuto molto più evidente, e appunto in Costa d'Avorio, perché purtroppo se ne parla di meno appunto nei media internazionali e poi in italiano, nei media italiani nemmeno a parlarne, lo scontro insomma è stato abbastanza esplicito, certo, da questo punto di vista. E qui i dati che ci porti tu ci permettono di capire su che elementi si gioca lo scontro, petrolio, alcune materie prime. Sì, sicuramente ce ne sanno, cioè queste non sono analisi approfondite, no, che però spero hanno il quadro abbastanza. Però sì, assolutamente, anche perché in realtà poi la strategia della Francia, ma non solo della Francia, diciamo che è cambiata, no, negli ultimi decenni, perché se negli anni 90, della democratizzazione, comunque moltissime ex potenze coloniali pensavano ad un intervento che fosse meno invasivo, cioè in Africa, questo non significa che avessero intenzione di dimenticare o abbandonare i loro interessi, questo assolutamente no, però era cambiato comunque il loro atteggiamento anche a seguito della cocente sconfitta, ed è dirla sconfitta è veramente riduttivo, ma della catastrofe del genocidio del Ruanda. Cioè da quel momento in poi c'è stato anche un cambio di atteggiamento nei confronti, cioè, dell'Africa, e una politica, cioè, di minore ingerenza diretta a livello politico, anche se poi la Francia in particolare ha sostenuto, ma questo tanto ormai è una cosa talmente scontata e conosciuta, ha sostenuto tutti i dittatori più, diciamo, cruenti o comunque più longevi dell'Africa francofona, però la dominazione tra virgolette soprattutto economica è passata, principalmente già lo era, ma è passata con maggior forza nelle mani del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale, una dinamica che è nata sicuramente già molti decenni prima, in particolare con la crisi del debito che è scoppiata principalmente in Messico, inizialmente in Messico nell'82, che però poi si è propagata a tutta l'Africa e che ha messo in ginocchio l'Africa con tutti i programmi strutturali che poi gli stati africani sono stati costretti ad accettare, insomma, sì. Quindi è cambiata nuovamente la politica, adesso è molto più esplicita, cioè è meno, diciamo, preoccupata dell'apparenza, anche perché c'è ancora la maggior parte della popolazione francese che crede che, insomma, i soldati francesi che si trovano in Costa d'Avorio sono lì per ristabilire, cioè, la missione umanitaria. Sì, per la democrazia. Quindi in realtà la Francia si fa forte di questo, anzi, cioè, cerca il consenso proprio attraverso questo tipo di atteggiamento, comunque di ruolo nello scenario politico internazionale, in particolare africano. Sì, sicuramente, ecco, poi il genocidio in Ruanda ha comunque prodotto anche una scossa a livello di opinione pubblica che ha costretto, tra virgolette, le potenze occidentali a cambiare, almeno a livello superficiale, strategia. Però appunto, da quanto dicevi tu, dalle informazioni che ci davi dal punto di vista del controllo delle risorse, ma stiamo parlando davvero di multinazionali che controllano, quando si parla di strutture pubbliche, di trasporti pubblici, di trasporti, della rete, insomma, dell'acqua potabile, stiamo parlando di le risorse essenziali di un paese. Quando una potenza straniera controlla in maniera sostanziale queste risorse, non possiamo non parlare di neocolonialismo. Ecco, poi dopo, se naturalmente i media internazionali si interessano tanto al fatto che nel processo elettorale Ouattara fosse stato appunto legittimato da canali, da, o comunque sì, da potenze straniere anche a livello mediatico, questo ci fa ben capire quali siano oggi le logiche di legittimazione di un colpo di Stato o comunque di un processo neocoloniale. Ci prendiamo un piccolo stacco musicale e poi riprendiamo. Va bene. Mandiamo ancora questa musica marocchina. Sì, dai. يا من هو باز في القفاز يا من هو فروج على الكندرة ونشار جناحه يا من هو تليس ويا من هو تليس عطا ظهرو economiche internazionali e relative soprattutto alla produzione di cacao. Da anni si parla di una nuova forma di schiavitù in Africa subsahariana, sicuramente non è l'unica, però che coinvolge in questo caso almeno, diciamo, si parla di 15 milioni di bambini al di sotto degli 11 anni che vengono trasferiti dal Mali alla Costa d'Avorio ed impiegati nelle produzioni di cacao. A quanto pare sfruttati, cioè sia nelle piantagioni di cacao che in quelle di caffè, a quanto pare questi bambini sono venduti dai genitori stessi per la cifra di 30 dollari statunitensi, e secondo la polizia maliana sono almeno 15.000, anche se poi non si hanno, diciamo, dati certi. La polizia maliana che afferma l'esistenza, quindi comunque riconosce l'esistenza di questa tratta di schiavi, e che appunto ci dice anche che c'è un villaggio, questo il villaggio si chiama Sicasso, dove c'è un registro di persone scomparse praticamente composto da bambini che ogni anno appunto vengono impiegate nel mercato, cioè vengono impiegati come nel mercato del cacao, quindi un esodo forzato su cui tra l'altro è indagato tempo fa a lungo anche la BBC, cercando di mettere comunque in evidenza questa nuova forma di schiavitù in Africa subsahariana, e che ci riporta anche un po', cioè che ci riporta sicuramente a tutto quello che successe anni fa per quanto riguardava, ricordiamo, lo scandalo Nike, insomma quello che successe in Asia e non solo, e che ci che riporta anche alla ribalta uno dei problemi che di cui oggi si discute, che è quello della tracciabilità, insomma, dei prodotti, delle informazioni sui luoghi di produzione, che molte volte per il cacao e per il caffè non ci sono assolutamente. Quindi questa è una piccola riflessione con cui volevo concludere, insomma, questa parte sulla Costa d'Avorio, sperando di potervi poi portare nelle prossime puntate maggiori informazioni. Ok, grazie, un altro piccolo stacco e poi passiamo decisamente all'Egitto. واشوف الدنيا هاك ودا دايزا بنعملوي تسمعني يا غضب. E allora riprendiamo la trasmissione ritornando all'Egitto. Allora, in Egitto, dopo Mubarak Tantawi, però insomma gli scontri continuano. Sì, gli scontri continuano, la situazione non si è pacificata assolutamente, anzi purtroppo in queste settimane dopo non abbiamo potuto dare aggiornamenti, perché appunto nel palinsesto del redazionale di Africa in Movimento avevamo altre cose in programma, altre emergenze, tra le quali quella appunto della Costa d'Avorio, però appunto la situazione non si è fermata. Ricordiamo un attimo alcuni eventi rilevanti delle ultime settimane. Anzitutto ieri, per la prima volta dopo molte settimane, non si è manifestato a piazza Hamidan Tahrir, a piazza Tahrir, la piazza principale del Cairo, che è stato l'epicentro dell'insurrezione da gennaio a questa parte. Non si è manifestato, dicevo, in maniera massiccia, c'erano all'incirca solo 300 persone. Fa un po' strano dirlo dopo appunto settimane e settimane di mobilitazioni anche appunto di migliaia di persone in quella piazza, però questa decisione è stata una decisione presa da alcuni protagonisti, gruppi protagonisti dell'insurrezione o comunque delle mobilitazioni delle ultime settimane, soprattutto perché per vari motivi. Allora, il motivo ufficiale è che si vuole dare tempo agli organi di polizia, a chi gestisce oggi il potere in Egitto, quindi al Consiglio Supremo delle Forze Armate, di avviare dei processi contro appunto personalità del regime. Soprattutto è stato deciso questa mancata manifestazione di spostarla al 22, quindi al venerdì prossimo, al 22 aprile, a seguito dell'arresto di Mubarak, che oggi rimane comunque internato. Comunque, diciamo, sì, allo stato d'arresto, anche se appunto a causa delle sue precarie condizioni di salute si trova presso l'ospedale internazionale di Sharm el-Sheikh. Comunque appunto Mubarak, che è stato per il momento è fermo per 15 giorni di custodia cautelare, che appunto a seguito di un'inchiesta per corruzione e appropriazione indebita di fondi pubblici, che è stata avviata dalla procura da alcuni giudici egiziani, assieme ai suoi due figli, che sono appunto Gamal e Ala. Gamal, ricordiamolo, era il principale pretendente al trono, diciamo, ecco, alla successione di Mubarak, prima appunto di tutti questi eventi, di queste mobilitazioni. Di fronte all'ospedale vi sono stati anche degli scontri o comunque dei conflitti, delle tensioni tra manifestanti pro Mubarak ed anti Mubarak, non solo perché appunto si voleva condannare da una parte la presenza e la presenza dell'ex Rais in quell'ospedale, ma alcuni giornali quotidiani egiziani dicevano anche perché molti egiziani temevano che la presenza di Mubarak fosse comunque stesse minando il turismo stesso di Sharm el-Sheikh. Quindi insomma le rivendicazioni e le accuse sono molto diversificate. Al di là di questo, la coalizione dei giovani appunto della rivoluzione del 25 gennaio ha deciso quindi di non manifestare questo venerdì e di indire una nuova manifestazione per il 22 aprile, venerdì prossimo, con appunto delle richieste ben precise. Da una parte la condanna della repressione di quello che è avvenuto nella notte tra l'8 e il 9 aprile, ora vi spiegherò sinteticamente che cosa è avvenuto, la fine di processi militari per appunto soggetti civili che stanno continuando in Egitto. Chiedono poi, come anche hanno chiesto in passato, la dissoluzione di tutti i consigli municipali, dei governatorati, come anche dell'apparato del Partito Nazional Democratico, il partito dell'ex Rais Mubarak, che è ancora in piedi e che ha un fortissimo controllo capillare sulla società. E poi naturalmente accanto a questo si chiede anche la dimissione di tutti i rettori, diciamo, delle differenti università pubbliche e anche i direttori delle varie facoltà, perché appunto nominati all'epoca di Mubarak e protagonisti nelle ultime settimane anche di forti repressioni. Ricordiamo appunto quanto avvenuto qualche settimana fa alla facoltà, diciamo l'equivalente della nostra facoltà di scienze della comunicazione, dove appunto vi erano stati dei presidi da parte di alcuni studenti per chiedere le dimissioni del loro rettore all'Università del Cairo, presidi che sono stati appunto repressi fortemente dalla polizia chiamata proprio dal rettore stesso. Questa mancata manifestazione, diciamo, veniva dopo che quanto avvenuto la notte tra l'8 e il 9 aprile. Che cosa è successo l'8 aprile? Il famoso, appunto, era sempre un venerdì, come capita spesso in Egitto, le manifestazioni avvengono sempre dopo il venerdì della preghiera, e quindi niente, c'era stata una manifestazione interessante perché accanto ai gruppi che tradizionalmente avevano presidiato la piazza di Midan Tahrir nelle settimane passate, vi erano anche componenti importanti dell'esercito, i militari che, contravvenendo alle decisioni del Consiglio Supremo delle Forze Armate, sono scesi in piazza in numero abbastanza importante accanto ai manifestanti, con delle accuse ben precise, con delle rivendicazioni ben precise. Questi militari li si vedevano perché proprio sono scesi in uniforme accanto ai manifestanti, a sostegno dei manifestanti, chiedevano anzitutto un'inchiesta interna all'esercito per capire se vi erano membri del cosiddetto apparato di sicurezza, l'Amna Daula, quindi di queste squadracce da noi spesso chiamate in causa in queste ultime settimane per la loro azione repressiva nei confronti degli insorti, ma non solo. Chiedevano poi la dissoluzione dell'appunto Consiglio Supremo delle Forze Armate e un processo verso gli appartenenti del Consiglio, i membri del Consiglio, tra cui anche il ministro della difesa, l'ex ministro della difesa Muhammad Hussein Tantawi, che, come diceva prima Salvatore, è diventato oggi, diciamo, il nuovo Rais, o comunque presiede questo consiglio e quindi è responsabile non solo per quanto sta facendo, e lo vedremo nei prossimi minuti, ma anche per quanto ha fatto all'epoca di Mubarak. Chiedono poi che cosa questi militari che sostengono i manifestanti di Midan Tahrir? Hanno chiesto la creazione di un consiglio presidenziale composto principalmente da civili, con la presenza di un solo esponente dei militari. Chiedono rapidi processi per chi è appunto ritenuto responsabile anche delle repressioni di piazza delle settimane passate. Hanno accusato in maniera molto forte il Consiglio Supremo delle Forze Armate di essere colluso con il vecchio regime. Loro quindi che rivendicavano proprio lì in quella piazza l'8 aprile di essere anzitutto degli egiziani e poi dei militari. Come ben vedete, come potete ben percepire da queste rivendicazioni, sono tutte rivendicazioni di carattere squisitamente politico e non di carattere socio-economico o comunque professionale, come è avvenuto in passato anche da membri delle forze di polizia che sono scesi in piazza. Qua si parla di rivendicazioni squisitamente politiche e soprattutto di rottura con quanto avvenuto fino ad oggi in Egitto da parte delle forze armate. Ci denota anche una frattura, una spaccatura interna all'esercito tra la base e le élite. Purtroppo però che cosa è successo? È successo che questa manifestazione che si è prodotta quindi l'8 aprile ha visto nella sera dell'8 e per tutta la notte delle fortissime tensioni tra i manifestanti assieme ai militari che li sostenevano e dall'altra parte le forze armate più, diciamo, diligenti agli ordini che venivano loro dati dall'alto, che hanno inizialmente intimato alla piazza al presidio, al sit-in che c'è stato per tutta la notte, di sciogliersi, e che successivamente è passata alle maniere forti con appunto proiettili sparati in aria e non solo, perché comunque ci sono stati dopo, a seguito di questi scontri, almeno 2 morti e una settantina di feriti. Hanno quindi sciolto il presidio con il sit-in con la forza durante la notte e hanno vietato qualsiasi tipo di assemblamento, qualsiasi tipo di riunione per il giorno successivo. Questo perché? Perché vi erano all'interno della piazza, anche questa volta come in passato, differenti correnti. C'era chi proponeva una mobilitazione permanente nella piazza anche nei giorni successivi, fino a quando le loro richieste non fossero state accolte, e c'era chi invece rivendicava una pratica che più tradizionalmente è stata adottata in questi giorni e in questa settimana al Cairo, ovvero di appunto riunirsi ogni singola settimana il venerdì per portare avanti le proprie rivendicazioni. Quindi un evento innovativo, quello dell'8 e del 9 aprile, e che ha visto poi una repressione anche successiva nei giorni seguenti. I militari che erano scesi in piazza al fianco dei manifestanti sono stati arrestati, saranno probabilmente processati proprio per questa loro iniziativa. Si parlava molto spesso di luogotenenti, comunque appunto delle gerarchie più basse all'interno dell'esercito egiziano, comunque importanti e rilevanti dal punto di vista dei manifestanti in piazza. Accanto a queste repressioni che si sono appunto viste dalla notte dell'8-9 aprile, c'è tutto un processo controrivoluzionario che abbiamo tentato di descrivere anche nelle settimane passate e che potremmo far cominciare dal momento del referendum in poi, no? Il referendum avvenuto nella terza settimana di marzo, se non sbaglio, e che ha visto, ricordiamolo, l'accettazione, comunque l'approvazione degli emendamenti alla Costituzione che sono stati promossi da una commissione nominata dal Consiglio Supremo delle Forze Armate. La coalizione dei giovani del 25 gennaio, protagonista delle insurrezioni, anche se non perché protagonista nel senso eterogeneo del termine, perché nel senso più largo del termine, perché è composta da appunto tantissimi movimenti, aveva dichiarato di non essere d'accordo con appunto il responso del referendum, ma che aveva accettato il verdetto delle urne e aveva continuato a chiedere quello che vi ho descritto in precedenza in riferimento alle dimissioni dei vari esponenti di governo e dei governatorati, comunque tutti gli esponenti dell'ex regime. Questo processo controrivoluzionario dopo il referendum, ricordiamolo, si è concretizzato sostanzialmente con il decreto legge del 23 marzo del 2011, nel quale appunto il governo neo costituito aveva appunto legittimato essenzialmente la criminalizzazione delle proteste e delle manifestazioni di piazza, dicendo appunto che qualsiasi sit-in, qualsiasi manifestazione che avesse interrotto la normale vita politica o economica del paese avrebbe potuto essere interrotto in qualsiasi momento dalle autorità dell'Egitto, perché minacciava appunto il quieto vivere, la normale vita politica del paese ed economica. Dopo questo provvedimento, una nuova legge importantissima è stata fatta ben solo cinque giorni dopo dallo stesso governo che, appunto, come capo dell'esecutivo era stato in realtà inizialmente approvato e sostenuto dalla piazza, Essam Sharaf, ovvero appunto una legge per la Costituzione, la legge del 28 marzo del 2011 che regolamentava la costituzione di nuovi partiti politici. Abbiamo detto in passato, già ricordato nelle scorse settimane, come c'erano una ventina di progetti politici, di progetti partitici, scusate, nuovi, che comunque si stavano avviando in Egitto attraverso mobilitazioni, riunioni, assemblee. Ecco, si attendeva naturalmente una regolamentazione di queste procedure affinché appunto per arrivare per arrivare alla scadenza elettorale del settembre di questo anno con un panorama definito di partiti politici. Il problema è che questa nuova legge anzitutto vieta la costituzione di partiti essenzialmente di classe, vieta la costituzione di partiti basati sulla religione. Nuova legge che sostituisce la legge numero 40 del 77, quindi all'epoca di Sadat, e che afferma in questo caso, questa nuova legge, un quorum di 5.000 firme certificate per la proposta di costituzione di un nuovo partito. 5.000 firme, di cui 300 da raccogliere per ogni governatorato, che sarebbero appunto l'equivalente delle nostre regioni, e che poi firme che dovevano essere vagliate da un comitato che doveva quindi giudicare entro e non oltre i 30 giorni. Che cosa è cambiato dal passato? Le opposizioni e i manifestanti dicono praticamente nulla. Prima, anzi, si poteva costituire o comunque si poteva proporre la nascita di un partito attraverso la collezione di sole 50 firme, adesso si arriva a 5.000. Quello che si diceva, la maggiore critica che veniva fatta al sistema di accettazione di partiti durante l'epoca di Mubarak, qual era? Che c'era un comitato nominato appunto si diceva di indipendenti, ma in realtà nominato da Mubarak, che doveva giudicare se questo partito, questo progetto partitico, doveva o poteva o meno essere accettato a livello legale. Ecco, i manifestanti chiedevano in realtà che il sistema giudiziario egiziano avesse dovuto solo in realtà ratificare la nascita di un partito e non giudicare se questo partito poteva o meno concorrere alle procedure elettorali in Egitto. In realtà questo non è cambiato, perché come si afferma appunto nel decreto legge, nella legge del 28 marzo, sta ancora un comitato di la decisione ultima sull'accettazione o meno di un progetto partitico. Si va in realtà anche oltre, perché si dice che tra i criteri che questa commissione, questo comitato dovrà adottare per la valutazione dei progetti partitici, si afferma in maniera esplicita, e cito qui proprio il decreto, che i principi, gli obiettivi, le politiche e le modalità sulle quali si basano i nuovi partiti non devono contraddire i principi della Costituzione o le esigenze di sicurezza nazionale e non devono minacciare l'unità della nazione. Capite bene che, parlando di esigenze di sicurezza nazionale, di unità, del minacciare l'unità della nazione, oppure che non si devono contraddire i principi della Costituzione, ricordiamolo, la Costituzione è ancora quella degli anni 70, solo in parte emendata su alcuni poteri presidenziali, ma niente di così, non c'è stato uno stravolgimento della carta costituzionale. C'è quindi un potere discrezionale concesso alle autorità egiziane che permetterà in futuro, nei prossimi mesi, di selezionare, di filtrare le esperienze o comunque i tentativi di mobilitazione e di organizzazione che dal basso si costituiranno in Egitto. Accanto a questo progetto, progetto controrivoluzionario, quindi, che per ora si concretizza in questi tre step, quindi referendum da una parte, decreto legge sulle, appunto, criminalizzazione delle proteste e la legge sulla costituzione dei partiti, vi è comunque un movimento di auto-organizzazione che si sta comunque che sta continuando in Egitto. Oggi volevo un attimo solo soffermarmi su alcune organizzazioni che potremmo definire di sinistra rivoluzionaria che stanno nascendo in Egitto in questo periodo e che sono ereditarie comunque del Partito Comunista Egiziano. Piccolo assunto storico del Partito Comunista Egiziano, nato nel 22, appunto grazie anche a un fortissimo contributo della presenza di migranti europei che si trovava in Egitto all'epoca, già dal 1924 fino alla metà degli anni 60 il Partito Comunista dovette agire segretamente. Successivamente, durante l'epoca di Nasser, ci sarà una scissione all'interno del partito a causa della politica di cooptazione e di repressione di Nasser, che riuscì ad assorbire alcuni esponenti marxisti di quel movimento e altri invece a reprimerli fortemente a causa di, appunto, grazie a incarcerazioni e così via. Si ristabilì nel 75 e ha dovuto agire ancora una volta nella clandestinità, quindi un partito molto, con una storia molto controversa. Ecco, diciamo che c'è un partito soprattutto che sembra voler raccogliere l'eredità del Partito Comunista Egiziano, che si chiama appunto il Partito Democratico dei Lavoratori, e uno dei suoi leader, per esempio Kamal Khalil, è un ingegnere ed è appunto faceva parte, era il leader del gruppo dei socialisti rivoluzionari egiziani, accanto per esempio a un altro leader come Kamal al-Fayyumi, che invece è uno di quei lavoratori che hanno come dire egemonizzato, o comunque che hanno condotto in prima persona la battaglia e le proteste, gli scioperi che ci sono stati nella zona del delta del Nilo, quindi di quelle rivolte nell'industria del settore del tessile a Mahalle el Kubra, a Kafr Dawar o a Tanta. Quindi ci sono rappresentanti sia del movimento dei lavoratori sia, diciamo, intellettuali socialisti rivoluzionari che hanno una tradizione, diciamo, più che altro non tanto militante quanto di produzione intellettuale nella storia egiziana. Qual è il programma politico di questo partito? Anzitutto propongono una riforma radicale del sistema agricolo in Egitto, nuovi provvedimenti volti anche a controllare il lavoro nelle fattorie. Oggi davvero possiamo parlare di schiavismo per quanto riguarda i lavoratori di queste tenute. Rivendicano un minimo salariale di 1200 pound egiziani, che equivalgono più o meno a 200 euro al mese. Vogliono appunto portare avanti, condurre una lotta alle privatizzazioni che, come abbiamo ricordato nelle settimane passate, si sono portate avanti in Egitto dagli anni 80 ad oggi, e quindi vogliono una, diciamo, un'intromissione o comunque un nuovo intervento dello Stato per riprendersi queste fabbriche che sono state svendute. Poi ci sono anche provvedimenti o comunque rivendicazioni più generali come la lotta alla corruzione amministrativa, il miglioramento delle condizioni lavorative e anche dei provvedimenti o comunque delle rivendicazioni abbastanza controverse, come per esempio in alcuni comunicati di questo nuovo Partito Democratico dei Lavoratori, che dovrebbe nascere a breve se questo comitato lo accetta. Si parla anche di stringere nuovi legami o comunque rivalutare i legami economici con Israele attraverso soprattutto l'esportazione di gas. Questo ci fa capire come appunto anche la loro condotta sia abbastanza contraddittoria. E accanto a questo Partito Democratico dei Lavoratori poi vi sono delle entità che stanno nascendo che non sono proprio partitiche. Per esempio c'è la Coalizione Rivoluzionaria dei Lavoratori, che in realtà si vuole mettere, si propone sullo scenario politico egiziano come una coalizione di ONG, di sindacati, di partiti, per cercare appunto di senza guardare all'appartenenza politica, loro dicono, quindi per cercare di coinvolgere il numero maggiore di persone. Naturalmente anche qui c'è un programma, comunque delle rivendicazioni di carattere generale, però il problema da questo punto di vista è che forse sembra da una parte che le rivendicazioni di carattere socio-economico che si sono prodotte in Egitto nell'ultimo decennio soprattutto possano trovare un terreno fertile all'interno di questo tipo di organizzazioni. Bisogna vedere come queste organizzazioni poi dopo si comporteranno nei confronti A, delle istituzioni, e B, delle istituzioni nazionali, B, delle istituzioni internazionali, perché qui ancora non si discute per esempio della dipendenza dell'Egitto da appunto questo mercato globale. Anzi, il Partito Democratico dei Lavoratori parla addirittura di rivalutazione dei legami economici con Israele. Quindi vedete come la situazione è abbastanza contraddittoria. Naturalmente accanto a questi partiti si continua anche una politica di legittimazione da parte dei movimenti più tradizionali. I Fratelli Musulmani tra poco inaugureranno questa nuova catena satellitare, questo nuovo giornale. Si propongono comunque in un'ottica di dialogo interreligioso, sempre diciamo dall'alto, con colloqui, discorsi, con appunto soprattutto i rappresentanti della presenza copta. Copta che è molto borghese, diciamo. Assolutamente sì. Raccoglie la parte non solo diciamo dei ceti imprenditoriali, soprattutto del professionisti, insomma. Assolutamente sì. Quindi e intanto accanto a questi movimenti il governo, comunque il Consiglio Supremo delle Forze Armate, strizza l'occhio anche continua a strizzare l'occhio agli Stati Uniti, continua a parlare della necessità di investimenti stranieri e dell'inserimento comunque di capitali stranieri in Egitto, sempre con la solita scusa di molti portata avanti da molti paesi medio orientali, che dicono: se non ci sono investimenti stranieri non ci sarà sviluppo economico, se non c'è sviluppo economico c'è instabilità nel paese, e se c'è instabilità in Egitto c'è instabilità in tutto il Medio Oriente, e quindi anche qui le potenze occidentali perderebbero. È la vecchia impostazione diciamo industrialista, no? Sì, ma anche Nasser è caduto in quella cosa, perché assolutamente sì, diciamo la partenza è stata giusta, poi volendo industrializzare dall'alto, d'altronde è anche difficile pensare come è possibile un'industrializzazione che non sia diciamo 100 anni dopo quella europea, che non fosse dall'alto, se è quello che persegui il progetto di industrializzazione. Come fai a fare a meno dei capitali laddove stanno e della tecnologia laddove sta? Il problema è che infatti la storia del Partito Comunista Egiziano, se la facessimo più a fondo, ha avuto molte influenze per esempio col Partito Comunista Italiano e francese, più con quello italiano. Tra l'altro, quando è stato messo fuori legge, molti sono venuti in Italia, di questi profughi del Partito Comunista, accolti dal Partito Comunista Italiano, e quindi sono stati. E il concetto di industrializzazione forzata dall'alto è entrato dentro questi che poi mantenevano contatti col Partito Comunista, anche clandestino in Egitto, e comunque hanno, diciamo, come dire, hanno portato questi. Se la scelta, la linea è quella che noi ormai riteniamo superata, che è stata quella terza internazionalista, di sviluppare la classe operaia e quindi sviluppare l'industrializzazione e quindi andare alla ricerca dei capitali laddove stanno e della tecnologia, è chiaro che questa non puoi fare altro che questo, non te la puoi inventare. Sì. E se invece si sceglie un'altra strada, è chiaro che è tutto un altro discorso, però questa strada pare che ancora non sia. No, ho detto, ci sono queste organizzazioni che stanno nascendo anche a livello appunto sindacale, che sembra appunto si contrappongono in questo momento principalmente agli organi di regime, che avevano un fortissimo controllo sull'attività lavorativa e sull'attività proprio di mobilitazione dal basso. Il problema bisognerà vedere poi dopo, quando queste organizzazioni entreranno in un conflitto più aspro, dopo, se riusciranno anzitutto a smantellare l'apparato del regime, appunto in che ottica riusciranno poi dopo ad entrare, in che ottica conflittuale riusciranno ad entrare con coloro che davvero controllano oggi il potere economico, comunque che detengono il potere economico in Egitto, che purtroppo non sono più egiziani. Quindi lì bisognerà vedere che tipo di coscienza rivendicheranno, che tipo di pratiche rivendicheranno. Sicuramente il percorso è ancora lungo e non mi stancherò mai di dirlo, perché davvero ci sono vari filtri che bisognerà rompere. Ora per il momento il movimento in generale in Egitto sembra concentrarsi soprattutto sulla parte, diciamo, di rivendicazione di giustizia nei confronti di coloro che erano gli esponenti del regime. Però la costituzione di questo tipo di partiti presuppone che cosa? Presuppone un malcontento generalizzato che non è assolutamente cessato, cioè la crisi appunto anche alimentare e questi auspici del governo egiziano sono in realtà indicatori di una crisi economica dell'Egitto che non si è arrestata e che anzi potrà solo che peggiorare nei prossimi mesi. Questo sommato alle scadenze elettorali che ci saranno appunto a settembre, prima per quanto riguarda il Parlamento e poi dopo per le presidenziali, non porteranno, secondo me, che potranno portare solo ad una maggiore conflittualità. Poi certo c'è tutto poi lo schema di conflitto interreligioso che purtroppo oggi si sta producendo, anche perché ci sono l'apertura, diciamo, del panorama politico egiziano ha portato anche all'avanzare di alcuni soggetti integralisti o comunque radicali religiosi, come per esempio movimenti o gruppuscoli salafiti con personalità importanti che sono state in prigione anche per 20-30 anni e che oggi sono uscite allo scoperto, che possono parlare per questa apertura mediatica e che quindi naturalmente vogliono coltivare il loro orticello, anche se poi di facciata parlano di dialogo nazionale e così via. Ricordiamo che gli emendamenti alla Costituzione che sono stati fatti, per esempio, non prevedono ancora una repubblica laica, cioè nel senso si parla sempre di appunto Islam di Stato, e quindi fa gioco forza, è molto facile per esempio questi gruppi nominati o comunque catalogati, etichettati come salafiti, di dichiarare che non ci potrà mai essere un presidente copto e quindi alimentare tensioni, oppure un presidente donna e quindi alimentare tensioni e così via. Sono degli scontri, diciamo, che potremmo definire apparenti, perché appunto sono stati montati ad arte nelle settimane precedenti, ma che a poco stanno prendendo piede anche nel sentimento della popolazione, soprattutto in manifestazioni che si sono prodotte. Per esempio qualche giorno fa c'è stata appunto una manifestazione, una celebrazione religiosa da parte appunto di alcuni ordini sufi presenti in Egitto, dove si è proprio notato, si è evidenziato anche lo scontro tra ordini sufi e movimenti salafiti nell'Egitto di oggi. Si facevano circolare questi volantini dove si diceva appunto che i salafiti erano nemici dell'Islam, questo in contrapposizione alle critiche che alcuni esponenti del salafismo egiziano avevano fatto nelle ultime settimane nei confronti degli ordini sufi considerati come pagani, quindi poi a poco assolutamente inconciliabili, quindi che però poi alimentano delle problematiche, delle tensioni che fanno quasi mettere in secondo piano da una parte a livello di media internazionali ma anche a livello nazionale delle problematiche di carattere socio-economico che purtroppo sono lì, sono latenti e non si risolvono certo attraverso l'apertura del Parlamento a nuovi soggetti politici di questo tipo. Cioè, c'è anche un dato che diciamo questo che chiamiamo integralismo islamico, cioè questo Islam politico che viene fuori in questi paesi, si avvale anche del fatto materiale di una proposta chiave che ha quello dell'assistenzialismo. Assolutamente. L'assistenzialismo religioso che come nell'Europa del Seicento, il protestantesimo nel nord Europa, è chiaro che in una situazione di crisi pesante e che tu hai detto che non si vede, non è suscettibile di miglioramenti a breve termine, quella proposta mascherata, sì certo, con tutte queste baggianate religiose, però fa strada negli strati più bassi della popolazione. Assolutamente. Può far strada. E anche la contrapposizione, che è religiosa, però viene gestita anche sul piano, diciamo, di classe, che i copti fanno parte della borghesia medio-alta, è chiaro che acuisce, cioè è buon gioco perlomeno a chi vuol lavorare su questo terreno metterci. C'è una base materiale, voglio dire, al di là del fatto. Sì, la base materiale poi risiede anche nel fatto che appunto dopo 40 anni di discriminazioni di carattere anche religioso che ci sono state, non si possono negare, in Egitto, anche il copto, diciamo, non per forza ricco, non per forza medio borghese, comunque si lega alla propria comunità in una maniera quasi paternalistica, certo. E lì partecipa quindi a quello che appunto a questa logica interreligiosa, che in realtà poi alcuni movimenti più moderati religiosi come appunto i Fratelli Musulmani, moderati conservatori sottolineerei, tentano di sfatare, ma perché? Ma solo perché non vogliono essere dipinti a livello internazionale come movimento conservatore, perché sanno che in un'ottica di realpolitik classica non avere il sostegno internazionale o comunque la legittimazione internazionale delle potenze e dei capitali che poi vengono che decidono le sorti del paese vuol dire essere eternamente sconfitti. questi sono però movimenti conservatori che poi in realtà non si sa in che ottica ancora si muoveranno dal punto di vista proprio socio-economico, perché i Fratelli Musulmani ancora una volta non propongono niente di veramente progressista dal punto di vista socio-economico, sono anzi dei movimenti liberali, quindi liberisti dal mio punto di vista. E niente, quindi queste sono le ultime conclusioni che possiamo fare, riflessioni che possiamo fare sul caso egiziano di queste ultime settimane. Naturalmente continuiamo a tenerlo d'occhio, questo è normale, anche se poi appunto il panorama di tensioni si sta estendendo al caso siriano, se non appunto poi alla penisola arabica. Continueremo poi anche a monitorare naturalmente il caso tunisino e marocchino, anche se per il momento in Marocco non sembra esserci stato nessun tipo di incremento delle tensioni tra la piazza e appunto la monarchia. Ci sono delle tensioni latenti che non sono ancora sfociate in uno scontro come per esempio avvenuto in Egitto nelle prime settimane. Comunque poi lo vedremo nelle prossime settimane. C'è il caso del Bahrain che la stampa internazionale ha chiuso, però lì c'è stata l'occupazione e lì non se ne parla, che quella che come in Costa d'Avorio dura, anche lì nascondendo una rivolta sociale che era tutta economico-sociale col fatto che fossero sciiti, ma anche che lì perché gli sciiti corrispondono agli stati bassi della popolazione in Bahrain, e l'Arabia Saudita ha occupato col beneplacito di tutti i paesi, nessuno ha fiatato, chi toccherà l'Arabia Saudita, schiacciato tutto, sta avvenendo anche in Yemen la stessa cosa, e queste sono rivolte totalmente socio-economiche, ancora più socio-economiche, e quindi non mascherate nemmeno da democrazia o da dinamiche istituzionali, ma puramente socio-economiche, cioè strati bassi che dicevano stiamo male e vogliamo cambiare, e queste cose vengono schiacciate nel silenzio. Vabbè, questo si sa, però voglio dire anche l'attenzione nostra deve provare a dare perlomeno un'apertura di uno sguardo anche su questo. Vi ringraziamo Anthony e Serena. Grazie. Serena e Anthony, grazie per questa delucidazione. Ovviamente continueremo questa intanto questo osservatorio, questa conoscenza, e vedremo la realtà se ci offre elementi di riflessione più approfondita e speranze anche magari. Vi ringrazio, ciao. Ciao, grazie.